la parola il professor Esposito, che dell'Università di Bari, che parlerà sull'essere di Dio nel pensiero di Heidegger. Perché questa parentesi? Poi ce lo spiegherà, ecco, nel corso. Mi raccomando, perché siamo certo. Già alle 6:30, quindi circa un quarto d'ora, poi il professor Rizza casa, e quindi per le 7 dovremmo aver finito, se la cena appunto ci attende per le 7:30, va bene. Es ist spät und wir sind alle müde. Deswegen werde ich suchen, nur einige Passagen der Gottesfrage Heidegger zu unterstreichen und einige Texte dazu anzubringen, um die weitere und gar nicht schon vollzogene Aufgabe einer Interpretation nur zu skizzieren. È tardi e siamo tutti molto stanchi, quindi cercherò soltanto di sottolineare qualche passaggio della problematica heideggeriana di Dio, dando soltanto degli input per un compito interpretativo tutto da sviluppare. Ich werde pünktlich das Schema der Zusammenfassung und dieses der deutschen Zitaten aus Beiträge folgen. Seguirò possibilmente in maniera puntuale il mio schema, nonché le citazioni di Beiträge. No, in italiano. Negli anni 30, nel pensiero heideggeriano, come si sa, si compie la Kehre di Sein und Zeit e non solo oltre Sein und Zeit. La Kehre nel Seinsgeschichtliches Denken, il pensiero della storia dell'essere. Uno dei punti focali più rilevanti di questa Kehre può essere rintracciato nel problema di Dio, la Gottesfrage. Qui il rapporto uomo-essere, in un certo senso, vedremo quale, viene reinterpretato come rapporto essere-Dio. E in questo il Dasein diviene il punto di ribaltamento della metafisica, il luogo di passaggio, Übergangsstätte, dal primo al secondo inizio del pensiero, dal senso dell'essere alla verità dell'essere. Se noi prendiamo come punto di riferimento l'Humanismus Brief, circa la Gottesfrage, il problema di Dio, questo problema viene inquadrato nella sequenza classica Dio, l'essere, il sacro, la divinità, Dio, Sein, Heiligen, Gottheit, Gott. E questa sequenza ci permette di collegare gli inizi teologici del pensiero di Heidegger, di theologische Herkunft, di cui ci parlava il professor Hoth oggi, da una parte, e dall'altra parte la nuova configurazione dei divini come uno dei quattro del Gefiert. Al centro di questo percorso, e quindi come punto mediano da cui è possibile vedere il prima e il dopo, stanno i Beiträge zur Philosophie vom Ereignis, scritti tra il 36 e il 38. La scansione problematica dei Beiträge, der Anklang, la risonanza, das Zuspiel, il gioco di passaggio, der Sprung, il salto, die Gründung, la fondazione, di zukünftigen, i futuri, i venturi, questa sequenza può essere letta come l'apertura dello spazio del sacro, heilig, nicht sacrale, benché questo sacro non sia tematizzato come tale nei Beiträge, è come la Vorbereitung, la preparazione del divino, in vista della decisione sulla venuta o sulla fuga dell'ultimo Dio. E vorrei sottolineare che questa Vorbereitung ist genau die echte phänomenologische Dimension meiner Meinung nach dieses Werkes Heideggers. Und die Reihe der Abteilungen ist gerade als Vorbereitung zur letzten Entscheidung gedacht. Questa Vorbereitung e questa Präparation è una Rinuncia, Vorbereitung als Verzicht. E andrei al Zitat 2, alla Citazione 2. Es gibt einen Verzicht, der nicht nur festhält, sondern sogar erst erkämpft und erleidet. Jene Verzicht, der entspringt als die Bereitschaft für die Verweigerung. Das Festhalten dieses Befremdlichen, das solcher Gestalt als das Sein selbst wisst. Jenes Inmitten zum Seienden und zur Götterung, das einräumt das offene Zwischen, in dessen Zeitspielraum die Bergung der Wahrheit in das Seiende und die Flucht und Ankunft der Götter ineinander schlagen. Das Wissen von der Verweigerung, Dasein als Verzicht, entfaltet sich als die lange Vorbereitung der Entscheidung über die Wahrheit. O altrove dice, il rifiuto è la stille des Vorbeigangs des letzten Gott. Pagina 406. Ma che cos'è l'Ereignis, che è il sottotitolo di Beiträge zur Philosophie? L'Ereignis, e qui uso, mi scuso, una lingua tecnica, ma per far prima non è possibile spiegare tutto. Cerco di suggerire solo qualcosa. È un campo di oscillazione, Schwingungsbereich. Che cosa oscilla? Oscillano due poli. Da una parte il Dio che ha bisogno dell'essere e dall'altra parte, attraverso questo bisogno, l'uomo che appartiene all'essere. Quindi l'Ereignis, l'essenziarsi, la Wesung des Seins, è proprio una oscillazione, un Gegenschwung tra il bisogno che Dio ha dell'essere e l'appartenenza dell'uomo all'essere tramite Dio. In questo senso, l'essere richiesto da parte del Dio, auf Deutsch würde besser übersetzen, das vom Gott gefordert werden des Seins, il fatto che l'essere viene richiesto da Dio, cioè Dio ha bisogno dell'essere per essere Dio, è ciò che fa essere a sua volta l'essere, in una maniera non più metafisica, ma appunto come un rifiuto, una Verweigerung, una mancanza senza fondamento, una mancanza che non rinvia più a qualche cosa che è nascosto, ma appunto una mancanza sospesa in se stessa. Vorrei spiegare un attimo questo un po' di più. Sin dall'inizio, da Sein und Zeit, per Heidegger la verità, la Wahrheit è aletheia, Verbergung und Entbergung zugleich. Ma qui c'è qualcosa di più radicale, etwas radicale al Sein und Zeit, perché l'essere qui si svela non dal nascondimento, ma come nascondimento. Das Sein hier entschleiert sich nicht von dem Verbergung, aber als Verbergung selbst. E allora qui abbiamo un doppio movimento, quella che Heidegger chiama la Kehre im Ereignis, o meglio la Wiederkehre im Ereignis, vale a dire l'appello, il Zuruf dell'ultimo Dio, del Letzter Gott, da una parte, e dall'altra parte il Zugehör, cioè l'ascolto dell'uomo che appartiene. Propriamente non c'è niente da ascoltare, né onticamente esiste più il Dio che chiama, ma l'essere accade solo nel reciproco coappartenersi oscillante di questi due poli. E qui andrei alla citazione 3, Zitat 3, Zeile 5, quinta riga. Jene Zugehörigkeit zum Sein und dieses Bedürfen des Seins enthüllt erst das Sein in seinem sich verbergen als jene kehrige Mitte, in der die Zugehörigkeit das Bedürfen übertrifft und das Bedürfen die Zugehörigkeit überragt. Das Sein als Ereignis, das aus diesem kehrigen Übermaß seiner selbst geschieht und so zum Ursprung wird des Streites zwischen dem Gott und dem Menschen, zwischen dem Vorbeigang des Gottes und der Geschichte des Menschen. Che senso ha qui questo übertreffen e questo überragen? Dio sopravanza sempre l'appartenenza dell'uomo e l'uomo a sua volta supera Dio. Vuol dire appunto che l'appartenenza reciproca non si ferma mai all'uno o all'altro dei poli, ma si sfonda continuamente. È come se il campo dell'oscillazione del pendolo facesse la circonferenza intera e ritornasse di nuovo ad oscillare. Continuiamo. Ma qui nasce un problema, forse una aporia per Heidegger, e cioè paradossalmente l'essere stesso pensato qui attraverso l'Ereignis non può mancare, pur essendo una mancanza, un rifiuto, una Verweigerung, trotzdem, nonostante questo, non può mancare realmente di altro, ma avrà bisogno solo di sé. E quindi il Dio che chiama non è più ciò a cui l'essere rimanda, per Heidegger, perché l'essere si totalizza in questa oscillazione in sé conchiusa. L'essere di Dio dice proprio questa insuperabile assolutezza del rifiuto. E quindi l'ultimo Dio, der letzte Gott, non è più il Dio che fugge o che viene, ma è la stessa possibilità oscillante della fuga o della venuta. E qui vorrei ricordare una coppia di termini che ritorna indirettamente nei Beiträge, ma che si trova soprattutto nel secondo band del Nietzsche, in particolare nel Seinsgeschichte Bestimmung des Nihilismus, quando Heidegger parla del rapporto tra Geheimnis e Rätsel, mistero e enigma. Probabilmente qui non è più adeguata neanche la parola mistero, almeno per come questo termine lo usiamo normalmente, vale a dire qualche cosa che, nascondendosi però, promette di rivelarsi. Qui forse es gibt ja nur ein Rätsel, un enigma irrisolvibile. Sì. Arrivo alla conclusione. In questa oscillazione in cui nel Dasein als Übergangsstätte das Ereignis sich ereignet, l'Ereignis, l'evento di appropriazione si appropria a se stesso, noi abbiamo anche un campo di decisioni. Se il Dio viene o se il Dio va. Però io vorrei dire questo, che probabilmente qui la grande decisione è già presa, vale a dire l'ultimo Dio non potrà mai più essere qualche cosa di incontrabile onticamente. E allora ecco l'ultimo punto, der letzte Punkt. La filosofia non salva, ma può decidere la possibilità della salvezza. Die letzte Entscheidung ist schon entschieden. il pensiero non nega affatto Dio, ma prestabilisce, decide il rapporto tra Dio e l'uomo, e così se ne impossessa. Questo rapporto è lo Schwingungsbereich, appunto l'oscillazione che non potrà mai fermarsi tra appartenenza e richiamo. Se la mancanza originaria dell'essere, Dasein als Verweigerung, als Ausbleiben, significa non la possibilità, ma al contrario l'impossibilità dell'altro dal pensiero, di qualche cosa cioè che stia fuori di questo circolo dell'oscillazione, allora la salvezza, la Rettung, non potrà più significare redenzione, Erlösung, ma oscillazione tra una escatologia irraggiungibile onticamente, cioè non c'è un punto reale da attendere, una parusia reale, perché l'escatologia è totalmente risolta nella oscillazione e quindi ultimamente non c'è, da una parte. Dall'altra parte un'origine e una memoria dell'origine ontologicamente sottraentesi. Le ultime due citazioni, citate ein, diese unvernutzte Macht der Verschlossenheit der reichsten Möglichkeiten des Mutes, des gestimmt wissenden Willens zum Ereignis ist einzige Rettung und Erprüfung. Und dann die Frage, was ist nützender als die Rettung in das Sein? E poi la citazione 3, Zitat 3, hier geschieht keine Erlösung, das heißt im Grunde Niederwerfung des Menschen, sondern die Einsetzung des ursprünglicheren Wesens, Daseinsgründung, in das Sein selbst. Die Anerkennung der Zugehörigkeit des Menschen in das Sein durch den Gott, das sich und seine Größe nichts vergebende Eingeständnis des Gottes, des Sein zu bedürfen. Il Kairos è qui del tutto scristianizzato. La storia non potrà più essere redenta perché Dio non ha più possibilità di irrompere come redentore in questa storia dell'essere. Grazie.